Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 25 giugno 2015. L'Italia torna leader nella canapa. Nuove applicazioni per un settore antico. Fino agli anni 50 l'Italia era il secondo produttore mondiale. Ora la canapa torna in auge grazie anche alle sue proprietà ecologiche e persino nutraceutiche. Lo sviluppo della produzione, rilanciato dalle normative europee, sta chiudendo una parentesi di alcuni decenni in cui la pianta, tra la proibizione dei derivati psicoattivi e la concorrenza delle fibre sintetiche, era quasi sparita. L'utilizzo che l'ha riportata in auge è innanzitutto quello edilizio, perché la canapa è un isolante naturale, per di più con proprietà verdi, in quanto cattura la CO2. Ora si assiste anche a un boom di derivati alimentari e delle nuove bioplastiche con fibre di canapa. Inoltre la canapa favorisce l'arricchimento del terreno e quindi molti agricoltori la introducono nel ciclo di rotazione anche per questa ragione. Fin qui la notizia del 25 giugno 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente. In questo 2012, tra i protagonisti del rilancio della canapa c'è Paolo Ronchetti, general manager e fondatore di Equilibrium. Noi abbiamo introdotto sul mercato in Italia un prodotto innovativo che si chiama Natural Beton, che è un biocomposito che serve per costruire ed isolare gli edifici, sia il nuovo che edifici ristrutturati e restauro. È un biocomposito di calce e canapa, dove la canapa è la parte legnosa, il trucciolato di canapa, che compone l'80% della pianta. Oggi questa applicazione è già competitiva. Noi oggi come Equilibrium abbiamo tutta una serie di applicazioni, tutta una serie di soluzioni per l'isolamento delle pareti perimetrali, isolamento dei pavimenti, isolamento dei tetti, dei sottotetti, la produzione di intonaci, termointonaci, antimuffa. Sono già competitivi. Da qui a qualche anno io mi aspetto l'attivazione su tutto il territorio italiano di una serie di impianti di prima trasformazione, sia di piccole dimensioni che di medie che di grandi dimensioni. Di conseguenza questa attivazione permetterà a tutta una serie di aziende agricole di introdurre nella rotazione la coltivazione della pianta di canapa. Nei prossimi anni il settore edilizio, quindi le applicazioni della canapa in edilizia, faranno da padrone. Di seguito ci sarà un'esplosione dell'utilizzo delle applicazioni alimentari, quindi il seme di canapa, che ha tutta una serie di proprietà interessanti, contenendo omega 3, omega 6, quindi acidi grassi polinsaturi, un antibiotico naturale, contiene proteine, antiossidante, antinfiammatorio, quindi quello che oggi si chiama nutraceutica. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Alessandra Tedesco e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.